Mix 24, la storia. Oggi a Mix 24 vi raccontiamo una pagina importante della storia dell'industria italiana. Si tratta di un'affascinante avventura imprenditoriale che attraverso tre generazioni, con i suoi successi, le sue cadute, le sfide alla globalizzazione, continua la sua corsa. È la storia di Aristide Merloni, classe 1897, figlio di contadini, un semplice perito industriale che ha saputo cambiare il destino della sua famiglia e della sua regione, le Marche. Siamo ai primi anni 50, quando Merloni conosce Enrico Mattei, fondatore dell'ENI, che ha dato nuovo impulso allo sviluppo energetico in Italia, anche lui marchigiano. È un incontro decisivo, l'inizio del miracolo italiano. Di questo primo incontro ce ne parla il figlio di Aristide, Francesco Merloni. Intanto vorrei dire che Enrico Mattei frequentava casa nostra. Ecco, molte sono venuto a cena dalle 3-4 volte, 5, non lo resto il numero, non me lo ricordo, ma veniva a cena. Mattei e Merloni si incontrano a Matelica, in provincia di Macerata. Mattei torna nel paese dove è cresciuto per ricevere la cittadinanza onoraria, perché attraverso l'ENI è riuscito ad assumere e dare lavoro ad un sacco di giovani di Matelica. Mentre lì, con Merloni, arriva il suo vecchio datore di lavoro, che in un accento marchigiano gli dice: «Ma Enrico, se tu ti porti via tutti i nostri maschi, le nostre femmine, che cosa restano a fare, le puttane?» Mattei è scioccato, capisce che il suo vecchio capo ha ragione. Se non si fa qualcosa e si portano via tutti i giovani, è finita, il paese muore. Così lo racconta Francesco Merloni, il primogenito di Aristide. Mattei è rimasto di stucco, rimase scioccato, ma capì subito che aveva ragione. E certo, ha ragione. E certo, se non facciamo qualche cosa qui e che se portiamo via tutti i giovani è finito, allora il paese muore. E allora io stavo lì, ho sentito tutto. Io ho detto: papà, noi abbiamo un progetto, vedi, per fare una fabbrica di bombole, che la faremmo a Fabriano. Dico, cioè, potremmo anche farla a Matelica, non è che 15 chilometri siamo. Così diamo un po' una possibilità di occupazione. Qui papà era titubante davanti a voi, dopo diglielo. Mattei preme per fare una fabbrica di serbatoi per l'ENI. Aristide ha già un progetto per una fabbrica di bombole. Dopo qualche settimana si decidono a fare uno stabilimento per produrre bombole per gas a Matelica. Mattei dà una commessa di 50.000 bombole prima ancora che partisse la fabbrica. Ancora Francesco Merloni. Ci ha dato i disegni delle bombole all'Agip, il prezzo è quello che facciamo a tutti gli altri, che era 4.250 lire a bombola, non ricordo, e partite. E noi abbiamo, non è che ci ha dato l'ordine così, però ce l'aveva detto. Noi abbiamo preso la parola, abbiamo preso i disegni e via, ci siamo messi a lavorare. Nel maggio del 1953, dunque, Aristide e suo figlio Francesco mettono in piedi una fabbrica di bombole grazie a una commessa dell'ENI di Enrico Mattei, un investimento sulla fiducia, un patto tra marchigiani che in pochi mesi, dopo la prima consegna, porta l'azienda di Matelica in utile. L'amicizia tra Merloni e Mattei sembra destinata a durare a lungo, ma all'improvviso nei rapporti d'affari tra i due si inserisce un'altra personalità forte di quegli anni. È Giorgio Lapira questa personalità, l'energico sindaco di Firenze. È ancora Francesco Merloni che ci racconta. Nel frattempo era successo che durante l'inverno la Pignone, quell'azienda che io avevo visitato, è andata in crisi. Con la crisi del Pignone, una fabbrica storica di Firenze, il sindaco Lapira si schiera con gli operai per difendere il posto di lavoro e obbliga Mattei a rompere l'accordo con Merloni. Insomma, i soldi che dovevano andare a Merloni vanno alla nuova Pignone di Firenze. Lapira, per convincere Mattei, non esita a invocare lo Spirito Santo. Mattei, Lo Spirito Santo mi ha detto che prenderai il Pignone. Senti Lapira, tu sai il rispetto che ho io per lo Spirito Santo, ma questa cosa non la farò. Ma poi Mattei richiama Lapira e dice: benissimo, prendo la Pignone. Per Aristide Merloni è un brutto momento. Sembra dover accantonare tutti i suoi progetti. Il rapporto con Mattei è un rapporto complicato. Così racconta il figlio di Aristide Merloni, Francesco. La prese, in effetti, sa, il rapporto con Mattei è un rapporto tra due personalità piuttosto molto, molto diverse, molto personalità forti e con e che avevano anche soggezione uno dell'altro. In effetti Mattei fece capire a papà che se gli dava dei contributi, perché lui aveva tante richieste per la costruzione delle chiese a Milano, che glielo chiedeva il cardinale Montini, mi pare che era quella volta, e allora insomma non, a mio padre lasciò cadere. Padre che queste cose non le considerava. Aristide, di fronte agli operai che perdono il lavoro, è costretto a licenziarli, ma continua a dargli lo stipendio. Per 3 mesi fa un po' da cassa integrazione privata, che all'epoca non esisteva ancora. E poco dopo, senza darsi per vinto, passa a fornire la concorrenza dell'ENI, come racconta Francesco Merloni. Noi siamo andati alla concorrenza e abbiamo trovato la possibilità di andare avanti ugualmente e abbiamo fatto un'azienda che in pochi anni ha sbaragliato tutti i produttori italiani. Le bombole si vendono bene, fanno cassa, come si dice in gergo. Quei soldi Merloni decide di investirli questa volta in una nuova fabbrica di scaldabagni. Non è difficile dalle bombole passare a fare gli scaldabagni e poi ancora al fornello a gas. Mix 24, la storia. Rieccoci su Mix 24 con la storia di Aristide Merloni, un giovane perito industriale marchigiano che diventa un grande imprenditore proponendo addirittura un modello industriale per la sua regione. Parte dalle bilance, poi le bombole e i fornelli a gas. Ma sentiamo Romano Prodi. Nell'Italia del dopoguerra, qual era l'elettrodomestico a portata di tutti? Era il fornello a gas, neanche la cucina, il fornello a gas, ed era abbastanza facile, tutto sommato legato in fondo anche alle bombole, no? Come idea, produzione e tecnologia abbastanza semplice, cominciarono con quella e poi dopo l'evoluzione, passare alla cucina intera e poi agli elettrodomestici fino al lavaggio, che è più complicato, no? E poi dopo la sofisticazione dell'elettronica e qui veramente la industrializzazione è stata sempre un pallino in testa di tutti e due i fratelli, cioè tecnologie la più moderne possibili, quindi economie di scala molto forte, spingere sul mercato. Dalle bombole ai fornelli a gas, passando per gli scaldabagni fino alle cucine con elettrodomestici. Il successo di Aristide Merloni negli anni del boom economico è frutto della qualità degli investimenti, della tenacia, dell'attitudine al rischio, ma anche, lo avete sentito, di un forte senso di responsabilità nei confronti dei suoi operai. La sua, del resto, è un'attività indissolubilmente legata alla terra d'origine, nata e portata avanti dal nulla in una regione storicamente povera e arretrata. Aristide nasce nel 1897 ad Albacina, una piccola frazione di Fabriano. Il padre Antonio è un piccolo coltivatore diretto, ma sa leggere e scrivere e si improvvisa notaio ad Albacina. Lavora come custode presso la centrale elettrica di San Vittore. Così riesce a far studiare il figlio Aristide. Lui è stato a scuola, ha fatto le elementari ad Albacina, poi ha fatto le scuole professionali a Fabriano, dove alloggiava nella casa di un ingegnere che abitava al centro di Fabriano e aveva preso a ben volere questo ragazzo molto brillante ed intelligente. Ed è proprio su stimolo del suo maestro che viene indirizzato all'Istituto Tecnico Montani di Fermo, una delle eccellenze per l'epoca nella formazione dei tecnici industriali. Prima di trasferirsi a Fermo, Aristide incontra Maria Mattioli, figlia di uno dei notabili di Albacina, che appartiene alla famiglia più benestante del paese. Si conoscono prima della guerra, poi Aristide parte come militare nel 1917 e una volta tornato si rincontra con lei, come racconta il figlio Francesco Merloni. Mamma aveva una grande umanità, ecco, veramente l'umanità, quella che ha accompagnato con grande fedeltà anche. Poi mio padre era esuberante, nei momenti anche nervoso o anche magari sbagliando, in un certo senso aspro in certi momenti, e magari le cose non andavano bene, perché allora se la prendeva con la moglie, scaricava tutto su di lei, insomma, cosa veramente che io giudicavo assurda. E lei ne soffriva tanto. Siamo negli anni 20, dopo la prima guerra mondiale, Aristide e Maria Mattioli si sposano nel 1921 nel loro paese natio, ad Albacina. Sono anni difficili, manca il lavoro. Aristide, come gran parte dei giovani italiani, è costretto a emigrare al nord. In Piemonte le cose vanno meglio. Il giovane perito trova lavoro in un'azienda meccanica che produce bilanci, diventa amministratore delegato, arriva a guadagnare la cifra astronomica per allora di 4.000 lire al mese. Ma qualcosa dentro di lui lo spinge a lasciare tutto. A 33 anni Aristide si dimette, torna a casa con tre figli e in tasca 12.000 lire di risparmi. Ancora Romano Prodi. Era talmente fissato, e questo nei suoi figli era fortissimo, nel rapporto con la sua città, che quello che mi colpì è questo: è andato in Piemonte, ha creato una struttura legata a quello che era lo sviluppo modesto, ma lo sviluppo industriale di allora, torna in un luogo del tutto senza cultura industriale e lì ci rimane per via delle radici, non per via della convenienza industriale, per via delle radici. Se potessi avere 1.000 lire al mese. Merloni è marchigiano non solo di nascita ma anche di vocazione e torna con la volontà di dare lavoro. Lui dice sempre: non c'è valore nel successo se non c'è anche una crescita nel valore della società. Ancora Francesco Merloni. Perché lasciare tutto? Per quella molla interiore, quel suo shock che ha avuto da ragazzo quando ha visto i suoi parenti, i suoi amici andare in un'emigrazione senza ritorno. Occorre fare qualcosa per il riscatto della sua terra, per il riscatto della gente, perché qui nelle Marche la gente possa continuare a vivere e lavorare. Merloni arriva ad Albacina, si mette in società con suocero per essere padrone dell'azienda. L'azienda va male, fallisce e lui si trova in braga di tela. Ma Aristide è tenace, non molla, come dice suo figlio Francesco. Comunque è sempre animato da questo spirito di fare l'azienda propria. È andato anche a raccogliere soldi attraverso l'amicizia col parroco. È riuscito anche a raccogliere un po' un gruzzoletto di soldi da amici che gli hanno prestato dei soldi per poter. È partito nel luglio del 1930 con 5 operai. Merloni inizia con le bilance, una tipica necessità di un paese agricolo dove viene misurato quello che si produce. La famiglia intanto si trasferisce a Fabriano. Francesco Merloni ricorda così il padre. La famiglia abitava a Fabriano e andava in bicicletta da Fabriano ad Albacina e poi la sera ritornata a casa si metteva alla macchina da scrivere, subito dopo cena a scrivere le lettere magari andavano a lungo fino alla mezzanotte inoltrata, poi andava alla stazione sempre in bicicletta per impostare le lettere e mandarle e spedirle in modo che arrivassero prima a Roma o a Milano che fosse. Negli anni 30, insomma, la Merloni arriva a coprire il 70% del mercato delle bilance in Italia. Intanto il piccolo capannone di Albacina, dove tutto è iniziato, è diventato troppo piccolo e l'azienda si trasferisce a Fabriano. Gli anni della guerra, però, segnano una battuta d'arresto. Molti operai vengono richiamati sotto le armi e l'azienda viene prima chiusa e poi requisita dagli alleati. Aristide però non si è mai compromesso col regime e trova la forza per ripartire. Fin dal 1943 assume la presidenza della Cassa di risparmio di Fabriano e il consenso nei suoi confronti continua a crescere. Ma non basta. La sfida della ricostruzione è ancora tutta da vincere e passa anche per un impegno politico in prima persona. Fabriano è una piccola città, una specie di Peppone Don Camillo, cioè ha una cultura cattolica molto forte, ma subito dopo la guerra viene travolta da un predominio delle sinistre, che fanno muro contro una dittatura fascista da poco finita. La Democrazia Cristiana ha bisogno allora di una contrapposizione forte contro il comunismo. Merloni ha il consenso perché ha iniziato ad imbarcare gente, nel senso che dà lavoro e poi è un democristiano fin dall'adolescenza. Così racconta la nipote di Aristide, Maria Paola Merloni. Credo abbia avuto il merito di far conoscere le Marche. Le Marche sono una regione piccolina, le Marche sono una regione... anche se vuole un po' emarginata dal resto dall'Italia, perché penalizzata da una distanza, da pochi collegamenti, eppure sono una regione oggi fortemente industrializzata, conosciuta, con delle grandi eccellenze italiane riconosciute in Italia e all'estero, e tutto questo è partito da nonno Aristide. Una profonda adesione ai principi cristiani, il pragmatismo sociale e l'impegno sul territorio di Aristide Merloni incontrano un grande consenso. È sindaco per 10 anni, poi senatore per 3 legislature consecutive. L'imprenditore contribuisce in modo decisivo al primato della Democrazia Cristiana nelle Marche, ma Merloni non si limita a gestire il potere. Nel 63, mentre nasce il primo governo di centrosinistra, dà vita a una fondazione che si dedica all'analisi e allo sviluppo economico e sociale della sua regione. Intanto la casa officina di Via Dante a Fabriano diventa una sorta di palazzo della signoria cittadina e Aristide diventa una figura quasi mitica, come ce lo dicono alcuni operai delle fabbriche Merloni. Lui passava 4 volte al giorno quando stava qui a Fabriano, era uno che capiva a volo quello che... e capiva se quel ferro che aveva utilizzato era appropriato per la portata della bascola. Ma se lui non era convinto che quelle dimensioni di quel ferro che era stato utilizzato non erano giuste, chiamava il progettista. Ecco, lì c'era quella che lui chiamava prima... c'era la ramanzina, insomma, via. E lui quando andava a vedere le carte di marcatempo, io 40 anni, ho marcato una volta rosso perché sono stato investito da maggiolone, non mi sono fatto niente, sono andato giù in ditta, ho marcato alle 1.31, non alle 1.30. Alle 1.31 a me mi ha levato 30 minuti di cosa? Come punizione 30 minuti di stipendio. I suoi metodi anche di gestione non è che erano proprio, come dire, avanzati sindacalmente, il sindacato non c'era, insomma, è una cosa non prevista. C'era un tipo di affidabilità che comprendeva anche il territorio, perché poi a supporto di questo c'erano le sezioni della Democrazia Cristiana, le parrocchie, e quindi l'egemonia era, come dire, totalizzante. E questo sistema ovviamente aveva i suoi limiti. Duro e rigoroso, ma anche gioviale, esuberante. Il carattere di Merloni è parte del suo successo, come del resto la sua ambizione. Dopo le bilance, le bombole, negli anni del boom, l'imprenditore marchigiano apre una fabbrica di scaldabagni a Matelica e una di fornelli a gas nella sua Albaccina. Alla metà degli anni 60 la Merloni si prepara a produrre ogni genere di elettrodomestici, ma per crescere c'è bisogno di rinnovarsi. E Aristide, fino a quel momento padre padrone dei suoi 4 figli, capisce che è arrivato il momento di farsi affiancare dalla nuova generazione. I prodotti Merloni arrivano nel mercato del consumo e allora bisogna inventarsi un marchio, come racconta Francesco Merloni. Intanto si dice, viene l'idea, siccome facciamo scaldabagni che vanno sul mercato del consumo durevole, bisogna che inventiamo un marchio, poi dobbiamo farci la pubblicità, tutte queste belle cose sopra. Dopo diverse discussioni ci venne l'idea, ma ci abbiamo Aristide, Ariston. E da lì venne fuori, insomma, beh, che Ariston era l'ottimus, perché in greco vuol dire il migliore. I primi tempi sono stati anche penosi, anche deludenti. Mi fece l'impressione che una volta noi avevamo fatto una rete di agenti, insomma, in tutta Italia. Arriva una telefonata. Dice all'Ariston: che film fanno stasera? Non faccio per vantarmi, ma la mia è una cucina Ariston. Cucine Ariston, prodotte dalle industrie Merloni e Fabriano. Ma il vero stratega del marketing è l'altro figlio di Aristide, Vittorio Merloni. Il padre da un lato è prudente e gli dice: ma Vittorio, mi fai spendere troppi soldi per questa pubblicità. Ma dall'altro lo lascia correre. Nella storia dell'industria Merloni c'è dunque anche Vittorio Merloni, figlio di Aristide. È energico, curioso, intraprendente. Arriverà negli anni Ottanta a guidare la Confindustria italiana. Mix 24, la storia. Dunque vi stiamo raccontando la storia di Aristide Merloni, un capitano d'industria che dalla provincia afferma il marchio Ariston in tutta Italia e anche all'estero, anche grazie all'intraprendenza di uno dei suoi figli, Vittorio Merloni. Sentiamolo a Mixer nell'83. Presidente Merloni, lei è di Ancona, ma oggi immagino deve vivere molto anche a Roma, anzi di Fabriano. Che cosa le manca di più della provincia? Beh, un po' la quiete, la pace, il riposo, la distensione. Si è mai sentito un provinciale a Roma? Sì. In che senso? Beh, una mia battuta, io quando ero piccolo non vestivo alla marinara, io vestivo alla montanara, vengo dalla montagna. Vittorio è molto innovativo nelle scelte di investimenti nelle aree immateriali, soprattutto nel design. Ma il colpo più grande è nel lancio delle lavatrici. Vittorio ha l'intuizione di cambiare l'oblò storico e il nome Margherita, la lavatrice con il nome di donna. E uno diceva: ma che lavatrice hai, Margherita? Bella da fare invidia. Porta a casa Margherita. Margherita, la nuova lava biancheria Ariston. La scuola del padre è una sorta di marchio della famiglia Merloni, racconta Romano Prodi. Realmente c'era la scuola del padre su una determinazione, su una volontà fortissima di sviluppo dell'impresa, che ha portato a superare delle difficoltà enormi, perché poi i problemi della concorrenza, quando sono arrivati Philips, prima gli italiani, no? Candy, Indesit e tutti gli altri, poi sono arrivati Philips, tutti gli stranieri e poi i concorrenti nuovi, l'impresa ha dovuto evolversi e dopodiché il rapporto con Fabriano è diventato molto più misto, dopodiché il riferimento era Milano, e poi è diventato tutta l'Europa, e oggi è la Polonia, è la Russia, e quindi l'Italia è solo un pezzo di questo, ma qui è cambiato il mondo, ecco. Elettronica, informatica, design d'avanguardia. La seconda generazione dei Merloni affronta la sfida dell'efficienza produttiva, alla base del modello Ariston, che sarà esportato in tutto il mondo, come abbiamo detto. C'è la scommessa vinta molti anni prima da Aristide. È un'idea della fabbrica a dimensione umana, dell'economia diffusa, dell'equilibrio tra industria e natura. La ricerca, insomma, di una via marchigiana allo sviluppo. L'economia di scala, l'efficienza, non vengono realizzate da un'unica impresa grande, ma da tante piccole che si integrano, rispondendo così ad un concetto molto importante. Il lavoro si porta dove sono i lavoratori e non viceversa. L'idea dei Merloni è bizzarra, secondo molti, ma funzionale, invece, per molti altri, come ci racconta Francesco Merloni. Questa è stata effettivamente l'idea di mio padre, ecco. Questa è stata, insomma, una dei cardini del suo cercare di venire incontro al territorio. Questo è socialmente e anche dal punto di vista dei costi è la soluzione migliore. Una soluzione che non piace ai grandi teorici dell'economia, secondo Bartolo Ciccardini, marchigiano anche lui e deputato della Democrazia Cristiana. Allora c'erano questi economisti milanesi che parlavano di grande industria, di necessità di accentrare le industrie, che pensavano che questo fosse un modello sbagliato. In realtà risultò un modello giusto. Perché i salari erano più alti, di fatto, pur essendo più bassi, dei salari degli immigrati erano più alti perché vivevano a casa loro, avevano la famiglia e poi avevano i servizi. Un quartiere operaio di immigrati a Torino non avevano i servizi che avevano nel paese, dove avevano il prete, il medico, il farmacista, la levatrice. È un modello sociale vincente. L'industria di Aristide cresce e si sviluppa in simbiosi con la tradizione agricola e la cultura contadina. Nasce una figura nuova nel panorama dell'economia marchigiana, il metal mezzadro, così ricorda Ciccardini. E nasce così l'idea del metal mezzadro, ossia del contadino che diventa operaio e in questa maniera ha i frutti della terra. Quindi fa il grano, fa il gran turco, frutti della terra e anche il salario di operaio, che è una ben altra cosa, perché non è economia di scambio, quella è economia vera. Con il prete che si arrabbia, che dice che non vanno più la domenica alla messa perché i giorni della settimana vanno a fare gli operai, la domenica fanno i contadini o si costruiscono la nuova casa sulla loro terra. C'è la vendemmia? Vattene a casa e fai la vendemmia. Datti malato e vai. La cultura contadina è anche questo e comporta che la gente si dà da fare per lavorare. Parlare di ferie alla Merloni è quasi una bestemmia, ma tutto è condiviso, come raccontano gli operai di Aristide. Sì, abbiamo scioperato. Poco. Molto. Bah, io direi su 15 anni, 3 volte. Io mi ricordo quando i portuali d'Ancona venivano davanti ai cancelli di Albacina per fare i picchetti, per impedire durante i scioperi generali alla gente di entrare. Insomma, c'è stata anche una battaglia dura su questo fronte. La CGIL non aveva tanto diritto di cittadinanza dentro a Merloni. Il contratto veniva applicato ma solo perché c'era un contratto nazionale, ma non c'era, il contratto aziendale era fatto di super minimi, di pacche sulle spalle, di piaceri reciproci che venivano a maturarsi a seconda delle esigenze. Alla fine degli anni 60 intanto il gruppo Merloni fattura più di 50 miliardi di lire e ha 3.000 dipendenti. Ma il 19 dicembre del 70 un incidente sembra spezzare per sempre il sogno del miracolo marchigiano. Aristide alla guida della sua macchina diretto allo stabilimento del figlio Antonio. Improvvisamente viene preso da una macchina a grande velocità. Rimane travolto. Così lo ricordano i nipoti Maria Paola, Francesca e il figlio di Aristide, Francesco Merloni. L'abbiamo avuto la notizia mentre tornavamo da scuola, un grande silenzio e noi quattro, io e i miei fratelli che camminavamo in mezzo alle persone che ci guardavano con tenerezza e mio nonno disteso sul letto. Per me è stato cadere un po' in un buco nero, e, anche se ero molto piccola, però la sua presenza era molto forte per me, molto molto forte, sai, quelle cose che passano poi senza tanti diaframmi, senza tante spiegazioni, ci sono e basta, no? È stato un momento difficile perché il trapasso generazionale è il momento più difficile per un'azienda. E lì indubbiamente tutti erano un po' sul qui vive, un po' il trapasso è stato tragico e immediato perché per un incidente e non è stato niente insomma preparato e purtroppo mi ricordo, io ero l'unico che c'avevo una procura e potevo firmare, gli altri nessuno c'aveva niente. Comunque siamo andati avanti anche con con le banche, ma le banche non ci davano niente. Addirittura io avevo delle cambiali firmate Enrico Mattei, che la Banca di Roma ce le rimandò indietro. Non c'era fiducia, insomma, capito. Per i Merloni è il momento più duro. Fabriano è in lutto, tutta la regione è orfana di un imprenditore, di un leader amato e rispettato. Tra dolore e sconcerto, i figli di Merloni si riuniscono già nelle prime ore successive alla tragedia e decidono di andare avanti nonostante l'ostilità delle banche. Francesco Merloni viene eletto all'unanimità presidente della società capogruppo, ma il venir meno dell'autorità paterna sembra dividere l'unità della famiglia. La fabbrica di bilance, fondata nel 1930 da Aristide Merloni, è diventata un complesso di aziende internazionali affidate oggi alla terza generazione della famiglia. La globalizzazione, la crisi finanziaria però hanno messo gli eredi di fronte a una sfida, che è la sfida di questi giorni, una sfida forse ancora più grande di quella che è stata intrapresa dal fondatore. E allora che cosa resta del successo di Aristide Merloni? Qual è la sua eredità? Mix 24, la storia. Bentrovati su Mix 24 con la storia di Aristide Merloni. Nel 2008 l'avventura del figlio Antonio si chiude. L'impresa viene travolta dalla crisi e dichiarata insolvente. Nel 2010 quella prima fabbrica costruita da Aristide Merloni con l'aiuto di Mattei viene ceduta al gruppo Gergo di Osimo. A partire dal 1975 Francesco e Vittorio Merloni portano avanti rispettivamente i due rami principali dell'azienda, la Merloni Igienico-Sanitari e la Merloni Elettrodomestici. Entrambi i gruppi fanno capo ad un'unica finanziaria, la Merloni S.P.A., con partecipazioni uguali tra i due fratelli e la sorella Esther. Nel 1993 le dimensioni dell'azienda dei fratelli comportano la divisione definitiva delle società. Nel luglio 2014, infine, il gruppo Indesit, che faceva capo al figlio Vittorio, cede alla Whirlpool il 60% del capitale sociale. Il gruppo termosanitari del figlio Francesco, invece, continua la sua avventura vincendo la sfida del mercato globale. Oggi Ariston Thermo fattura 1,3 miliardi di euro con 6.600 dipendenti e una distribuzione che copre oltre 150 stati in tutto il mondo. Presidente Paolo Merloni, nipote di Aristide, due nuove acquisizioni in un anno, ricavi e utili raddoppiati. Ricomprate le quote della società appartenenti alle banche, insomma, si sente il sangue del nonno. Il modello imprenditoriale di mio nonno e anche dopo di lui di mio papà rimane il faro che guida il nostro lavoro e l'attività di Ariston. In questi anni siamo cresciuti bene e vogliamo continuare a crescere. Vogliamo puntare su prodotti ad alta efficienza energetica e che utilizzano energia prodotta da fonti rinnovabili e puntare anche sul vedere il mondo come il nostro mercato. In questo continuiamo in particolare a seguire la filosofia di mio nonno Aristide. Cioè cosa in particolare? Mio nonno credeva e crediamo anche noi che ogni azienda deve essere una ricchezza per la comunità nella quale opera. Questa è la filosofia che noi applichiamo in Italia, così come in ogni altro paese in cui siamo presenti. Ma Fabriano, che per il nonno e poi anche per suo padre era così importante, per lei cos'è? Ma guardi, Fabriano all'interno delle Marche è il cuore, le Marche e Fabriano in particolare sono il cuore del nostro gruppo, lì abbiamo le nostre radici, a Fabriano abbiamo il nostro centro direzionale più importante, nelle Marche vicino Fabriano abbiamo diversi stabilimenti all'avanguardia che producono soluzioni molto tecnologiche per il mercato del comfort termico. Ma per lei Paolo Merloni cos'è? Ma guardi, io quando mi chiedono di dove sono, io sono di Fabriano, io sono marchigiano, passo certamente molta parte del mio tempo viaggiando in giro per il mondo, però torno sempre a Fabriano e continuo a passare il tempo nelle Marche, sia per lavoro sia con la mia famiglia. Qual è la cosa di cui più è soddisfatto? Forse è quella di avere la possibilità di continuare il percorso tracciato da mio papà e da mio nonno prima di lui, guidare un gruppo internazionale come Ariston Thermo. Questo è un compito di cui vado molto fiero, che ha molte opportunità e anche molte sfide. Il 90% del fatturato del vostro gruppo è all'estero, non si può parlare più di miracolo italiano come lo è stato per suo nonno? Io penso di sì. io penso che non si può pensare di guidare un'azienda di successo oggi, nel 2014, se ci si limita ad essere leader in un mercato di 60 milioni di abitanti, quando ce ne sono 7 miliardi nel mondo e quindi l'Italia rappresenta meno dell'1%. Noi dobbiamo pensare a tutti i livelli che la competizione e il mercato sono globali. Noi siamo riusciti a posizionarci in diversi mercati esteri e lo abbiamo fatto bene. Questo oggi ci consente di essere leader in mercati in sviluppo. E proprio per questo credo che Ariston Thermo ha rafforzato la propria identità di azienda italiana con una dimensione globale. Siamo grandi esportatori, il 30% della nostra produzione in Italia, il 10% solamente fatturato, e quindi siamo ambasciatori del Made in Italy nel mondo. Portiamo tecnologia, design ed un marchio italiano. Come mai non siete quotati in borsa? Guardi, noi siamo stati sempre attenti ad avere una situazione finanziaria equilibrata e abbiamo mantenuto nell'azienda la stragrande maggioranza delle risorse finanziarie generate. Questo finora ci ha portato a non aver bisogno di chiedere capitale al mercato. Ariston Thermo genera cassa e siamo sereni in questa situazione. E lo farete prima o poi? Ma io ritengo la borsa uno strumento positivo, uno strumento utile per imprimere un'ulteriore crescita dimensionale e non solo alle imprese. È una possibilità, non è all'ordine del giorno, ma non lo escludo. Lei, se non sbaglio, quando era più giovane voleva lavorare in finanza e non nell'azienda di famiglia. Poi ha cambiato idea. Perché? Guardi, la finanza è sempre stata una delle mie passioni. Ho iniziato però la mia carriera non in finanza ma in consulenza, perché ritengo sia importante fare esperienze diverse. In questa esperienza ho avuto la possibilità di apprendere un modo di vedere e di considerare le aziende che porto sempre con me. Però è vero che non voleva lavorare poi nell'azienda di famiglia o no? No, direi di no, direi che volevo prima fare delle esperienze diverse e la volevo fare più in finanza che in consulenza. Dopo sono capitato in consulenza e poi sono entrato in azienda e direi che entrando in azienda ho capito l'importanza di lavorare in azienda e ho imparato molto, lavorando con manager anche più senior di me e sono contento della scelta che ho fatto. Progetti per il futuro? Uno semplice, continuare in questo percorso per Ariston Thermo, continuare a crescere sia tramite una crescita interna sia per linee esterne attraverso acquisizioni, con la consapevolezza che il nostro settore, il settore del comfort termico, giocherà un ruolo sempre più importante per la comunità. Grazie Paolo Merloni. Grazie a lei.